E mio bisnonno, mio nonno e i fioi, che sarebbe mio papà, sarebbe mio zio, per più di 100 anni, gli ha stati amministratori del Conte Sia Trapani. Del del Conte Trapani. castello che della Malga, perché Della Malga Palazzo, delle Imprec, del castello, lei sta proprio amministratore. Dopo è venuta la guerra, no, noi ne ha date il castello, mio papà è una fuori di casa, fuori di famiglia. E allora ne ha dato il castello a noi, che se ne ha di via di casa, per mantenerne una bestia, una vacca, una capra, ecco. E il che mi ha avuto 10 anni. Dopo è il conte Fedrigotti, che lei subentra all'amministratore dei Masadori del Castel Beseno, Che era il no? cognato di Trapp, della sposata Ecco, lei va Trapp, sposata a Trapp, Fedriotti. lei lo è diventata conte perché la sposata a Trapp, Allora, niente, ecco, se no non aveva titolo di conte, no? Beh, Fedrigotti. E nella tolt dopo 10 anni, perché noi siamo venuti qua di casa, avendo com'è che si dice, la la mesatria compagna. nella frazione di Masera, avendo lasciato dopo 10 anni, ecco, e si è venuto di qua perché era morto un zio, e la nonna era un zio da sposare, e mia mamma si è venuto di qua. Ecco, allora il castello nella tolt e gliel'ha dato a qui dal Mas, sì, ai Masadori. Che noi, dico la verità, è sempre stato ordinato, pulito, perché noi tagliavamo il fen per la bestia, ne venivamo su con le Pascoleva bestie e dalla pascoleva, primavera fino a ottobre, che sì. mi sciassi che non tra da una parte, Dio solo e la Madonna lo sa quanti sciassi, perché mio papà con la falce tagliava il fen e mi davanti con rastè a torghi dei sciassi, perché sennò non poteva neanche segare il fen. Ah, mi giovena, oh, Allora mi era dice, giovane, allora. allora che avrò avuto 8 anni, 9, 8, 9 anni. Sarà sta, mio papà sarà una forte famiglia del 34-35, e insieme 45. E dopo dei 45 siamo venuti qua, noi, nella tolt, il Fedrigotti per darglielo ai Masadori, a darglielo a sto... Che è morto nel 47, Da quel che resta sotto. quel che resta sotto al trafe è il muro del castello. Del 46, ho guardato stamattina sulla lapide, va la dite, dovevi essere morto subito dopo la guerra, dopo chi ne l'ha tolta a noi, e difatti noi non l'abbiamo più avuto dopo il 45, perciò è morto nel 47, e l'era del 1904. Ma se no noi abitavamo, non si è mai abitati, ne veniva su la mattina, veniva su la sera, ne veniva su il pomeriggio, perché se ne va a scuola allora anche la mattina e anche la sera, e anche d'estate, era giornate lunghe, se ne va su dopo le 4, anche a pascolare con la vacca, e alle 7, 7 e mezza veniva a casa. E aveva sempre anche compagnia, perché da sola mia mamma non la mai lasciata andare da sola, perché la mi diceva, non ti sai mai a chi che te che da versi, nel castello. Che sei su da sola, che te puoi... Guarda, chissà chi che si presenta. Mai da sola, sempre in compagnia, sempre, sempre. Era una donna che aveva le capre, era veniva su a farmi compagnia e le moleva in che le mani. Guarda, da versi, che non ho paura, no dai, che non sarà mica, la mi diceva, Se mentò se mendo e la mi diceva, ti darai che... Eh sì, perché non si sa mica chi si presenta davanti alla porta, no? Non si vedeva mica fuori la faccia, no? Gli batteva con le sasse e veniva da verso la porta, ma i più tanti che dico che mica da verso la porta del castello, ne sta qualche coppia di fidanzati quando di Besenelli. era dopo di te A Maria, nonna, ma era sa compagna era sia sua madre, quella che mi ha detto era è una barba. tutelotta, mi pensi che ti... Quanti anni? Mi sono del 29. qualche coppia dei fidanzati da Besinel che deve essere alla porta, che veniva a farsi una passeggiata in giro per il castello, ma i più tanti che dicono era tedeschi che veniva a vedere il castello, i più tanti. E se pareva si zozzati tra loro, dopo parleva anche qualche parola, capiva tu però. Lui non parlava mica tedesco, no, e capiva tutto. Diceva colori del castello. Che neve su noi diceva per quello. Ma il più tanti era tedeschi che volevano la porta, ma noi veniamo via con la macchina, sanno, e veniva col treno, dopo ci apriva la strada del gas. Tutta la strada, la strada del gas e veniva su da quella, veniva. Gli insegnava le strade, gli aveva tutte le cartine e veniva bene, ma informati. No, io non ho mai visto arredamento, no. Mai visto. Mi ricorda a me, no? Cantina e le raso qualcosa delle roba del. No, come arredamenti mi non ho mai visto. Delle botte, quella roba lì, però. Ecco. Dopo quando ti contenti, i zii sono, che aveva il libro del castello, lì era un libro scritto del castello, no? L'ha visti da lesuntanti e dopo che sta comparì. Che l'ha fregato, che l'ha imboscato, sa che è successo, si sa, comunque che era sulla storia proprio del castello. Il parco che sia un altro del paese, ma non si sa, non si sa, perché sulle mamme.